Pietoso rendila, rendila a questo cuore, pura siccome l'angelo che veglia al suo pudore. Ma se una nube impura tanto candor m'ascura, priva di sua virtù, priva di sua virtù. Tanto candor m'ascura, oh, priva, priva di sue virtù, quando la vegga, io non la vegga più, che io non la vegga più. Priva di sue virtù.